Non poteva farlo prima? Che porchi po' per fare la rivoluzione si è fatto. Si è impegnato tanto. Ma prima della rivoluzione il presidente c'aveva l'immunità parlamentare e la strega ha le mani legate. Ah, allora tutto il mondo è paese.